labirinto, teso tra il banale e l'incomunicato, laddove, solo ponendo te stesso, troviamo noi stessi. Parole della coscienza che riflette modi e convenzioni in questo mare, dove natante è il corpo ed il pensiero vela chi scioglie annodato un destino di eventi e soluzioni nascoste in